Raccolta Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di calabriaindimedia.org. Indie Radio l'ascolti solo su transizione di fase, ogni venerdì alle 20:30 e in replica sabato alle 20:00.